abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione all'Ecuador che attacca. Ordoñez 1-2, palla buona! E l'Ecuador è già in vantaggio con Romario Ibarra. 40 secondi e succede l'impossibile. Con l'Ecuador avanti sull'Argentina. È tutto vero! Lo scambio con Di Maria ed è 1-1. L'Argentina riesce a pareggiare dopo un inizio shock. Messi 2-1 Argentina, l'ha ribaltato il più forte di tutti, l'ha presa, ha vinto il contrasto e l'ha sparata sotto la traversa. E adesso l'Argentina è al mondiale. E adesso chi critica Messi, shh, in silenzio. Chi critica Messi, shh, in silenzio. Vada solo Messi e risponde ancora Suarez, li ha fatti tre Messi e l'Argentina va al mondiale trascinata al suo numero 10 dal capitano Leo Messi. Momento di grande pausa della partita, sveglia tutti, lui accende la luce e regala un'altra dose di felicità al popolo argentino. Un cambio de técnico que siempre es difícil volver a empezar de cero, adaptarte a una nueva idea, una nueva filosofía, y así todo lo sacamos, conseguimos el objetivo que era clasificar, muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el último definido, último partido acá en Ecuador, por lo que significa todo eso, y bueno, por suerte se dio. Buongiorno a tutti. Dall'altra parte del mondo sono successe nella notte cose turche meravigliose, in parte ovviamente questa con l'Argentina che 2850 metri di Quito va sotto dopo un pugno di secondi, e il popolo argentino nella disperazione. Io voglio molto bene la maglia albiceleste, quindi disperato anch'io. E poi Leo Messi. Chi critica Leo Messi, shh, zitto, dice il telecronista. Io critico e parlo. Dopo lo facciamo insieme. 800240024, ma questa è la festa argentina dopo la partita. Ed è così che finisce la notte di Quito, è così che finisce la notte dell'Argentina ed è così che Messi porta la sua squadra nazionale albiceleste ai mondiali. Ed è così che io con Giorgio De Luca, il nostro autore, Roberta Frisani e Gianmarco Feronati, oggi in coppia di regia, ed è così che io saluto ovviamente Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Non lo sento, ma c'è, forse, arriva. E saluto con grande piacere chi se non Paolo Condò in un giorno come questo. Ciao Paolo. Ciao Carlo, siamo tutti sollevati, eh? Un po' sì, un po' sì, perché l'altro giorno parlavo di un incubo, no? Cioè sì. Un mondiale senza Messi, Cristiano Ronaldo, l'Olanda non ci va intanto, ma l'Olanda ormai è abbonata ai fallimenti, sì. E lì prima o poi ci faremo delle domande. Ma adesso parliamo di Sud America. Ci va la Colombia perché ha biscottato con il Perù, e anche di questo parleremo. E quindi è un mondiale cui a questo punto manca l'Italia, ma anche di questo parleremo. Rimaniamo su quanto abbiamo visto nella notte argentina. Si va sotto dopo un pugno di secondi e poi Messi decide che no, così non si fa. Va bene. Sì, magari quel gol dopo 40 secondi ha dato la svia decisiva. Vai a sapere, le partite. I romanzi delle partite si costruiscono così anche, partendo, se già la situazione era grave, farla diventare gravissima, ovviamente non apposta, può essere stata anche una buona idea. E di certo quello che aspettavamo già da 3-4 partite, all'ultima curva, sull'ultimo rettilineo, anzi, si è verificato, cioè Messi ha preso la squadra e ha risolto da solo la questione. E come è ampiamente nelle sue possibilità, soprattutto quando giochi contro un'avversaria come l'Ecuador di ieri sera, che gioca, diciamo, su tutto il campo. Certo. Perché nelle partite precedenti, affrontando squadre per esempio come il Perù, che avevano la qualificazione in vista, il fatto di stare tutti nell'area di rigore fa sì che quando tu parti in slalom, insomma, superarne 11 in slalom non è facile nemmeno per lui. Ieri, appena ha avuto un po' di spazio, Messi è stato letale, Messi e è stato ha risolto la partita. Ma anche per esempio un giocatore che ha bisogno degli spazi come dell'aria per respirare, cioè Di Maria, che era stato molto inconcludente nelle gare precedenti, e stanotte è stato prezioso, perché potendosi lanciare nello spazio, sai, Di Maria ha lanciato è un altro film, è un'altra storia. A proposito dei cronisti, ecco Pardo. Ciao Pierluigi. Eccolo là. No, dicevo, io... Ciao Paulino. Io invito tutti gli ascoltatori 800240024, parliamo di Sud America, poi parleremo anche un po' di Italia, però dicevo il nostro collega ha commentato la partita dell'Argentina, tutti zitti, parla Messi, chi lo criticava? Io non lo critico, semplicemente sto ancora aspettando Messi al piano di sopra, cioè non a risolvere una qualificazione mondiale che è doverosa contro l'Ecuador a Quito, ma a giocare in quel modo in una finale dei mondiali. Pardo. Sì, guarda, il tema è accattivante e mi pare che, insomma, anche giudicata la quantità di tweet che ci sono stati in mattinata e in nottata sull'argomento, sia grande argomento di discussione. Messi ha qualcosa da farsi perdonare dal punto di vista della nazionale, e ieri ha costruito una pagina importante, secondo me, di questa sua storia con l'Argentina. Il calciatore è indiscutibile, il grande calciatore di quest'epoca, e i paragoni ad altre epoche li lasciamo fare a chi se la sente. È il miglior calciatore di quest'epoca, qui lo dico i numeri, se la gioca con Cristiano Ronaldo, ma sono loro due e stiamo parlando di un fenomeno. Chiaro. In nazionale, dove ovviamente il calcio da liquido diventa ancora più liquido, proprio diventa acqua al 100%, perché tutto si lega a qualche partita che può essere più o meno fortunata. Magari senza quell'errore di Higuaín oggi Messi avrebbe alzato un campionato del mondo, no? Il Maracanã, l'errore clamoroso di Higuaín sullo 0-0 poteva cambiare la partita, anche lì vallo a capire, vallo a sapere. E quindi, insomma, parliamo ovviamente di un giocatore che in nazionale, rispetto al rendimento che ha fuori, ha qualcosa da farsi perdonare. E ieri, insomma, qualcosa ha dato, più di qualcosa, perché ieri ha vinto la sola. No, è evidente. C'è questo meraviglioso fotomontaggio di Olé, giornale argentino, con gli 11 giocatori dell'Argentina, tutti con la faccia di Messi, perché oggettivamente ieri l'Argentina è stata soprattutto Leo Messi. Poi si può discutere sul fatto che una squadra così forte, con un attacco così incredibile, possa ridursi all'ultima partita per passare il turno in un girone comunque di 18 partite, quindi di grande c'è il tempo per far valere le differenze tecniche. Ci saranno delle differenze tra l'Argentina e il Paraguay o tra l'Argentina e il Perù, e in 18 partite si è faticato a vederle queste differenze, quindi questo rimane come dato. Ma in una notte, nella stessa notte, il mondiale ha recuperato Cristiano e Messi. Adesso e questo ben per il mondiale, perché se stavano fuori, poi voglio vedere chi lo segue un mondiale in cui vedi giocare, ad esempio, magari Panama, anche questa è un'altra storia da raccontare. Paolo, però, rimaniamo su quel piano lì, no? Su questa Argentina con Messi, si dice che in Italia la formazione la decidano Buffone e i giocatori, e anche questo altro tema di dibattito molto più nostro, nazionale popolare. Direi di no, perché vuol dire, senza riaprire polemiche e altro, i giocatori più anziani preferirebbero altri modi tattici, quindi no, direi che la formazione la fa Ventura. La fa Ventura. In Italia. Sì, e in Argentina 4-2-4 chi la fa? In Argentina chi la fa? No, Dybala in panchina, Higuaín, allora, a casa, Icardi in panchina. San Paoli ha una storia professionale sufficientemente ricca per essere certi che sia lui a fare la formazione. È chiaro che quando tu disegni una formazione e hai tra le tue file il giocatore più forte del mondo, allora che cosa fai? Cerchi di esaltare in tutte le maniere le possibilità di questo giocatore, di metterlo a suo agio, perché dia il massimo. Allora, quindi Dybala prenda il bigliettino come al supermercato. No, allora, è una, è sbagliato pensare che in assoluto Messi e Dybala non possano giocare assieme, perché è ovvio che due giocatori di quella qualità sarebbero nati per giocare assieme. Però Dybala nella Juventus fa più o meno, tatticamente parlando, quello che fa Messi nel Barcellona, e ovviamente fra i due sarà sempre Messi ad avere la precedenza. E quindi se i due fossero assieme in un club, allora il lavoro quotidiano, dopo 2, 3, 4 mesi di lavoro, riesci a fare in modo che le caratteristiche dell'uno si sposino con l'altro, piccoli passi indietro. In nazionale non hai questo tempo. In nazionale magari questo tempo lo puoi avere soltanto una volta, prima dei mondiali c'era un mese di lavoro. Adesso non è più un mese, adesso sono 2 settimane di lavoro. Però in 2 settimane puoi fare degli allenamenti specifici, magari preparandoli prima che arrivino mentalmente predisposti, lo puoi fare prima della partita decisiva. Io capisco che San Paolo sia andato su una squadra dove ci sono Messi e 10 servitori di Messi, come era ieri. Ecco, a un mondiale per vincere probabilmente devi riuscire a inserire anche Dybala, e se li hai, come li hai, anche altri giocatori di gran classe. Qualche attaccante ce l'hai. Allora ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo e vi raccontiamo altre 3-4 storie pazzesche che sono arrivate dalla notte. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Tutti convocati. La pelota De Hala. Allora, questo è il gol che ha permesso a Panama di battere 2-1 Costa Rica, andando agli spareggi ed eliminando gli Stati Uniti. Panama per la prima volta vicino al paradiso. Poi che cosa raccontarvi della notte? Il biscottone, perché i biscotti si fanno anche in Sud America, anzi, spesso vengono prodotti lì, perché Perù è stato pasticcere di un biscotto storico ai mondiali del 78. Ricordiamo la sconfitta di 6-0 contro l'Argentina. Con Quiroga in porta, grande accusato, giocava in Argentina. Beh, allora ieri c'è questo video di Falcao, Radamel Falcao, che conosciamo bene, che sull'1-1 con un risultato che qualifica la Colombia ai mondiali, manda il Perù ai playoff, complici di altri risultati che già si conoscevano, a 5 minuti alla fine con la mano davanti alla bocca chiacchiera con i giocatori del Perù. Morale, lì si smette di giocare. Cosa vi posso raccontare d'altro? Un'altra storia meravigliosa. Paraguay-Venezuela. 0-1 finisce la partita, con il Paraguay che viene eliminato. Era una gara decisiva per il Paraguay, che era ancora teoricamente in corsa. E l'allenatore del Venezuela, Dudamel, che denuncia uno strano fatto. Sentiamo la sua voce. Muchas visitas femeninas anoche en el hotel. El fútbol ha evolucionado, señores. El fútbol ha evolucionado. Los tiempos han cambiado. Sta raccontando che la notte prima di questa gara, che si giocava in Paraguay, l'albergo del Venezuela è stato invaso da una flotta di signorine molto belle, paraguayane, in cerca di distrazioni, magari non tanto per loro quanto soprattutto per i giocatori avversari. Ed è tutto quanto ci fa impazzire. Vecchia storia, però con Do serve un libro, Ma che ti devo dire? Sì, no, di quello che vuoi, è cronaca, non stiamo inventando niente. Non soltanto sudamericana, non soltanto sudamericana, accadono anche in Europa, sono accadute, adesso c'è una vigilanza superiore, parlo ovviamente di partiti importanti, poi a livelli più bassi può succedere di tutto. Sono cose che accadono e sono le cose che tante volte si fanno dire, che il calcio è un gioco mentre gli altri sono sport. Bravissimo. Ecco, bravissimo. Il calcio è un gioco, e come tutti i giochi c'è chi imbroglia, c'è chi fa il furbo. Adesso questo no, non so nemmeno se chiamarlo imbroglio, direi è una furbata questa di stancare i giocatori della squadra, ma nella maniera più piacevole che possa essere concepita. E poi loro hanno detto, ma noi abbiamo dormito, non sì, abbiamo risposto certo. al telefono. Ecco, insomma, queste sono cose che sono sempre accadute. Chiaro. E che fanno poi e che grazie a Dio accadranno sempre, Paolo, e che ovviamente poi male. diventano parte, dico, della mistica, ma sì. del contorno che rende anche molto divertente raccontare. Ma chiaro, ma che poi storie... va detto che se ne hanno approfittato, vuol dire, torniamo sul vecchio tema, caro Apardo, per cui bella notte prima che si fa, si dorme oppure no, il Venezuela ha vinto. Comunque, quindi diciamo l'effetto psicologico ha superato quello fisico, potremmo dirlo così, dai. Però, quale ti piace di più, il biscottone o le ragazze in albergo? Oppure a prescindere, no, non se ne parla, non c'è gara. Non c'è, anche quella del giorno prima della Siria, che conoscete bene, che gioca con l'Australia, andata 1-1 in Siria, poi ritorno, era lo spareggio, no? Ritorno per andare ai playoff. Ritorno, si gioca in Australia 1-1 e Kyle segna a un pugno di minuti dalla fine. Poi che succede? Il vecchio Kyle segna a un pugno di minuti dalla fine e al 120esimo palo. La Siria colpisce il palo. Quando gli dei guardano da un'altra parte. Non sapevo se avevamo la clip da ascoltare, però insomma, sì, volevo dire appunto una cosa sulla Siria che mi è dispiaciuto, anche se in realtà non ho niente contro gli australiani, che anche sono molto simpatici. Però insomma credo che questa fosse una storia bella, no? E ci illudiamo certe volte di pensare che le guerre o le presunte guerre, le situazioni di complessità nel mondo possano essere risolte semplicemente come fossero partite di calcio. Non è sempre così, però insomma in ogni caso il calcio fa bene e secondo me l'idea che questa squadra abbia lottato fino all'ultimo e abbia partecipato a questa grande manifestazione fino all'ultimo è positiva, è bella, poi non c'entra niente e non risolve ovviamente i problemi geopolitici internazionali, però insomma mi sembra una storia che racconta la grandezza del calcio ancora una volta, palo o non palo. Certo, io volevo approfittare della presenza di Paolo Condò per un'ultima battuta invece sul nostro calcio, che insomma è quello che è e noi viviamo in un'altra maniera. Con mille dietrologie, con mille chiacchiere. Allora Paolo, ieri è stato nostro ospite Michele Uva, direttore generale della Federcalcio. Gli ho chiesto molto banalmente: ma esiste un problema commissario tecnico per la nazionale italiana? Risposta: assolutamente non ci passa per la testa nessun tipo di messa in discussione dell'allenatore, che in questo momento sarebbe deleterio. Non c'è spaccatura assolutamente fra gruppo e allenatore. Io quando parlo di allenatore parlo di staff tecnico, assolutamente no. Capito Paolo Condò? Ma voglio dire, che cosa può dire? Cosa può dire Uva? Cosa può fare la federazione? È come nei risposta esatta, non dovrei dire altro. Poi noi possiamo anche dire che magari spaccatura c'è, anche se viene negato. Cioè, tu dici esoneriamo Ventura adesso e andiamo da Ancelotti inginocchiandoci perché salvi la patria, non lo puoi fare. Diciamo che se avessi perso 5-0 in Albania poteva essere una tentazione a quel punto, ma adesso Ventura si è conquistato comunque quello che tutti quanti avremmo detto sarebbe stata la conclusione del girone, e cioè la Spagna è molto più forte di noi e quindi si andava allo spareggio. Devo dire che sarebbe stato meglio ovviamente che la tendenza fosse stata partire male e arrivare bene, perché siamo partiti bene e siamo arrivati male, però comunque ha il diritto Ventura di giocarsi questo spareggio, e allora se non passa lo spareggio mi aspetto un minuto dopo le sue dimissioni immediate, senza condizionamenti, senza condizioni, come ha fatto Pizzi con il Cile, un minuto dopo dimesso, non hai qualificato la squadra campione della Coppa America a casa. Ecco, se invece passa, come tutti noi speriamo, perché questa è la cosa fondamentale, tutti noi speriamo che passi, perché poi sembra una cosa per andarli per fregarlo, come me le taglio, perché così non è che Ventura in questo percorso abbia fatto chissà quali errori o chissà quali tragedie. È chiaro che ha sbagliato clamorosamente, perché l'ha sbagliato da un punto di vista tattico, perché probabilmente si è illuso che questa squadra potesse giocare con quel tipo di modulo contro gli spagnoli. E poi il resto appunto è quello che dice Paolo, cioè i risultati, i 23 punti sono in linea con quello che ci aspettavamo, e quindi ha il diritto, soprattutto per l'importanza dell'obiettivo, proprio per il discorso che stai facendo della moglie, della tentazione di tagliarlo, visto che invece l'obiettivo è piuttosto importante, ha pienamente il diritto, ma ripeto, anche dal punto di vista dei risultati, di poter andare a questo spareggio con il supporto, mi verrebbe a dire, di un'intera nazione. Il che non vuol dire ovviamente annullare la parte critica, che ci siano stati dei problemi, dei dissidi, delle incomprensioni, questo è abbastanza evidente. Io non credo siano di natura personale, cioè io non credo che Ventura sia antipatica ai giocatori, io penso che ci siano state delle divergenze di opinioni sul modulo e su determinate scelte che sono state fatte tra alcuni big della squadra con la loro esperienza e l'allenatore. Ma non parlo di simpatia o antipatia, parlo di fiducia o mancanza di fiducia. Sì, però voglio dire, con la fiducia, con o senza fiducia, questa squadra ha ottenuto un secondo posto e adesso va a giocarsi da testa di serie lo spareggio, il playoff, contro squadre che chiunque pescheremo di quelle quattro sono alla nostra portata. Se non le batto, meriti di star fuori. Dobbiamo non farci del male da soli, secondo me. Il che non significa tu hai fatto benissimo a fare la domanda a Uva ieri, hai fatto il giornalista e Uva ha fatto benissimo a rispondere in quel modo, perché sarebbe assurdo ovviamente la parte è pilotata, però confermiamo la fiducia, non esiste spaccatura in spogliatoio, benissimo, tutti d'accordo, fammi sentire Paolo Condò che poi lo saluto. Che hai detto, confermiamo la fiducia. Certo. Dopodiché magari anche esiste la spaccatura nello spogliatoio. Mica stiamo dicendo che sono state scritte delle palle in questo periodo. Però confermiamo la fiducia, perché in questo momento l'obiettivo è talmente imprescindibile. Sì, sì. Per tutto il calcio italiano. Perché poi diventiamo ridicoli. Qualcuno me l'ha scritto anche su Twitter, poi diventiamo ridicoli a raccontare la mistica dell'Argentina, della bombonera, così dice, ma fate tutti questi discorsi per l'Argentina, ma ci pensate che l'Italia sta rischiando di stare fuori? Cioè, ha ragione. Beh, rischiava anche l'Argentina, a Palermo e l'Italia è il primo pensiero. A San Siro, a Palermo, dovremmo avere uno stadio tipo Bombonera, cioè non c'è niente da fare, perché questo è l'obiettivo che abbiamo davanti. E parlare anche della mistica della nazionale italiana. Io non so cosa ragazzi. Aspetta, devo mandare la borsa. 5 secondi. A me non sembra, cioè non è che Ventura fosse Einstein, lo dico con rispetto ovviamente, prima di queste qualificazioni. Ventura è un buon allenatore che è stato preso, è stato messo lì. Forse l'unico azzardo è che è stato preso un allenatore che ha un'idea di gioco molto particolare, anche molto affascinante, che ha bisogno di lavoro. Quindi forse questo è l'unico punto interrogativo sulla scelta che è stata fatta. Andare a prendere un allenatore che ha un tipo di gioco abbastanza particolare e che quindi richiede bisogno di tempo, lavoro, però, eccetera. Alla fine non è che, cioè a me non è che ha deluso Ventura, che mi aspettavo chissà che cosa in più in queste 10 partite. No, possiamo discutere se è l'uomo giusto. Paolo. Sì. No, quello che noi ci dimentichiamo sempre è che c'era un pacchetto Lippi direttore tecnico e Ventura allenatore. Poi il pacchetto è saltato. Per i soliti motivi che sappiamo, il pacchetto è saltato e a quel punto Ventura si è trovato da solo. Perché con Lippi, poi non è che Lippi avrebbe fatto la formazione, no, però ci sono un sacco di situazioni nelle quali io ho percepito l'inesperienza ad altissimi livelli di Ventura. E Lippi sicuramente l'avrebbe messo sulla strada giusta. Comunicazione così per affrontare bene, carisma. Grazie Paolo. Grazie Paolo Condò. Allora ci fermiamo per la borsa in ritardo, poi scende anche il professor Berinazzo e poi parliamo con gli ascoltatori e poi altro ancora. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Rieccoci ragazzi, è sceso il professor Berinazzo dai piani alti del Sole 24 Ore. Buongiorno Berinazzo. Eccomi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Milano, da Milano. Da Milano. Gianluca da Bari invece, Marco da provincia di Arezzo, ci aspettano da un po', credo, per commentare la notte sudamericana, non so se per parlare di Messi o delle ragazze paraguayane nel ritiro del Venezuela. Gianluca? Sì, ciao. Ciao, ciao dimmi. Carlo. Ciao. Ciao, buongiorno. Voglio salutare pure signor Pardo. Il signor Pardo è anche salutato. È un grande ammiratore di tutte e due. Senti, grazie. Grazie. Io volevo dire giusto una cosa, cioè sulla nazionale italiana. Pronto, mi sentite? Sì, sentiamo. O meglio, volevo dire che secondo me si sta dando un po' troppo addosso al CT Ventura. Perché se leviamo queste due partite non mi sembra che abbia fatto male. E poi vorrei ricordarvi che lui ha giocato con i due centrocampisti centrali che fanno il nome di Gagliardini e Parolo, cioè sono veramente inguardabili in quel ruolo, cioè non proprio ci è mancato proprio là, proprio il fulcro del gioco, cioè è stata un'assenza troppo penalizzante per noi. E poi infine volevo chiedere al signor Gente e al dottor Pardo, e chiudo, un parere sulla mia città, sul Bari. Secondo voi, se pensate che possa riuscire a risalire in Serie A? E infine dire a Pardo se possiamo fare noi qualcosa, una petizione o qualcosa, per far sì che Tiki Taka inizi un attimino prima, perché questa mi sembra di averla già sentita. Questa mi sembra di averla già sentita. Facciamo referendum come in Catalogna. Scrivete a Pier Silvio che fra l'altro è giovane, appassionato di calcio, quindi magari vi ascolterà, no, a parte le battute. Sul Bari c'è la classifica più corta della storia nella Serie B, quindi un campionato che promette veramente grande spettacolo. Mi sembra, così vedendola un po' da fuori, che ci sia sempre molta ansia alla prestazione, perché è una grande città, è una piazza ovviamente che per numeri è ampiamente la Serie A, però questo non si è accompagnato negli ultimi anni a un'organizzazione societaria, tecnica di quel livello lì, e quindi tutto questo ha creato un po' di casino, no? La difficoltà, certo, di riuscire a raggiungere i risultati. Però insomma, mi sembra che non sia iniziata male, mi sembra che soprattutto quest'anno sia ancora di più una maratona, e veramente sono tutta la classifica in 7-8 punti, se non sbaglio, quindi veramente sì, sono grandissimi margini lì è cortissima, c'è grande equilibrio. Su Ventura sono d'accordo, non è che Gagliardini e Parolo siano già detto così scarsi, però non sono così scarsi, poi discutiamo di modo, poi tutto il resto però l'abbiamo già detto. Berinazzo, che ne pensi di Ventura? Beh, che se uno si ritrova con Parolo e Gagliardini, forse è il caso, insomma, che provi una soluzione differente se è il CT della nazionale. Sì, magari sì. Allora, sentiamo anche Marco da provincia di Arezzo e poi andiamo a discutere di un argomento che interessa anche da vicino Pardo, peraltro, diritti televisivi e questa querella che è nata dopo l'assegnazione, per una cifra peraltro abbastanza bassa rispetto alle altre, dei diritti televisivi del campionato italiano all'estero. Ne parliamo tra un attimo, ma intanto Marco, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Dica. Volevo fare una considerazione, prima, una piccola premessa, prima di esprimere il mio pensiero su Ventura. Volevo dire questo. Chi ha giocato a calcio, anche a livello semidilettantistico, sa benissimo che l'influenza di un allenatore circa il 20, al massimo il 30% sulla potenzialità del gioco che una squadra esprime in campo. Questo lo sanno tutti. Ora, che Ventura sia un allenatore ho dei dubbi, è più un selezionatore Ventura, e non ha né la grinta di un Cappello né quel magnetismo di un grande Mourinho, i cui giocatori sarebbero buttati dal fuoco se Mourinho l'avesse ordinato. Ora, detto questo, c'è anche da considerare una cosa, che a noi mancavano due pezzi importanti come Belotti e Verratti, e abbiamo la difesa più forte, non dico al mondo, ma in Europa presumo di sì. Quindi qual è il risultato? Il risultato è che Ventura è un buon allenatore, ma un grande un buon allenatore, però credo che non abbia le idee chiare e non ha quel carisma da coinvolgere veramente cose, ragazzi, a esprimere tutta la loro potenzialità. Sono cose che abbiamo già detto. Io Pierluigi, taglierei il discorso su Ventura perché andiamo sul resto, perché sennò ci manca il tempo, e andrei sulla storia di diritti televisivi. No, ma mi sembra che si sia già detto tutto, quasi, sono cose che abbiamo sentito. Di già. Allora, diritti televisivi, Berinazzo, del campionato italiano nel triennio 18-21, correggimi se sbaglio, assegnati per 371 milioni di euro. La Premier ne prende 1300 e poi ci domandiamo perché le squadre inglesi sono ricche. La Liga 636, cioè più o meno il doppio. Qui stiamo, e questo perché? Stiamo parlando dei diritti internazionali. Diritti quindi, internazionali, naturalmente. Il bando poi per quelli domestici che è andato. Che poi è la cassaforte del campionato britannico. Esattamente, e peraltro arriva a 1,5 miliardi, insomma, la Premier, anche un po' di più. E molto a 2,5 miliardi interni, sono 4 miliardi all'anno. Noi speriamo di raggiungere il 1,2 miliardi che prendevamo nel precedente triennio. Intanto io credo che sia stato un piccolo miracolo riuscire comunque a portare a casa 370 milioni dall'estero. Manca ancora poi la Supercoppa e la Coppa Italia, quindi sostanzialmente il doppio rispetto al precedente triennio, quando MP Silva garantiva sui media 186-187 milioni, quasi 190, sono quasi 200 insomma in quest'ultimo anno, ma la media è questa, quindi la metà di quanto i club italiani prenderanno nel prossimo triennio. Ora, siccome ci troviamo di fronte a una Serie A che si sta riprendendo, ma che non ha fatto tutte quelle cose che per esempio ha fatto la Premier in questi anni per essere un campionato dal grande appeal ed essere il primo campionato fuori dall'Inghilterra in tantissimi paesi, in particolare in Asia, è evidente insomma che il risultato raggiunto è ampiamente positivo. È adeguato a quello che può essere la Serie A in assoluto? Chiaramente no. È molto rispetto a quello che è la Serie A in questo momento. Sì, poi ci sono i contenti e gli scontenti, come al solito. Marotta, ad esempio, è contento. Beh, sono stati. Aspetta, sentiamolo. Sì, sentiamolo. Sentiamo. È stata fatta una scelta, direi, ponderata. Adesso sta a questa nuova agenzia, sta alle società di Lega, sta al nuovo management, alla presidenza, cercare di portare appunto beneficio e portare profitto nell'ambito di quello che sarà il nuovo triennio 18-21. Chiaramente l'obiettivo è valorizzare un brand che di per sé è molto forte e che forse ha perso un po' lo smalto in questi ultimi tempi. Così Marotta contento, così invece De Laurentiis mica tanto. Abbiamo avuto delle offerte che a dir poco mortificanti, per colpa anche secondo me di un grande errore fatto da Nicoletti, fatto da Tavecchio e fatto da Infront. Questi 350, poi saranno 355, poi saranno 360, ma ci portano verso un baratro, perché il gap con le straniere, con i vari campionati stranieri, aumenterà a dismisura. Allora, queste le due posizioni mi sembrano mi sembrano diametralmente opposte. Traffico, poi ne discutiamo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, che ha ragione o che ha torto? Marotta De Laurentiis. Ma ci sono da dare due, ho letto un po' i giornali stamattina, due aspetti. Un aspetto legato agli introiti complessivi, e qui sappiamo che De Laurentiis, proprio a Radio 24, un'intervista a Luca Telese un paio di settimane fa, aveva detto in maniera molto chiara e molto precisa che lui non aveva nessuna fiducia diciamo negli attuali vertici di Infront e che non si aspettava molto, e quindi insomma, mi sembra che sia la conferma di una linea. Sì. Evidentemente De Laurentiis non è soddisfatto con il totale raggiunto. Poi c'è un'altra cosa molto interessante che ho letto e chiedo a Beninazzo se non ho capito male, e cioè il fatto che c'era un'offerta che era quella di MP Silva che era più alta in termini, in valori assoluti, quindi è stato fatto passare un principio che secondo me è accettabile e che però la volta scorsa aveva provocato delle polemiche interminabili, addirittura delle inchieste che poi sono finite nel nulla, cioè il fatto che le società sono libere, ovviamente, se non c'è una sproporzione dal punto di vista economico, perché è ovvio che se uno ti offre 500 e l'altro ti offre 200 è chiaro che vai da quello che ti offre 500, ma che se c'è una sostanziale parità o comunque ci sono due offerte che sono abbastanza vicine, poi alla fine il parere delle società, se non ho capito male, è stato vincolante, perché evidentemente hanno più fiducia in questa nuova agenzia e credono che possa far bene al calcio italiano. Mi sembra tutto molto giusto, peccato che l'altra volta mi pare che invece la cosa aveva portato a delle polemiche infernali, se non ho capito male. Beninazzo, dacci no, la linea. È andata esattamente in questo modo, nel senso che c'erano tre agenzie, AMG, l'americana che ha vinto, Media Pro e MP Silva, le cui offerte economiche, diciamo, si equivalevano probabilmente per certi aspetti, quella di MP Silva era anche più alta, ma quello che le società hanno scelto con un voto, hanno votato in 18, erano presenti in 18 perché De Laurentiis è uscito prima, il Benevento non c'era, hanno voluto premiare il piano industriale presentato da MG, che ha assunto una serie di impegni per valorizzare, per aiutare la Serie A a valorizzare il suo brand in giro per il mondo. In questo, negli altri progetti presentati non c'era, e quindi si è preferita una scelta di qualità. Io credo, ripeto, che per l'attuale situazione del calcio italiano sia stato un piccolo miracolo aver raggiunto questa quota. De Laurentiis guarda alla Spagna, che incassa 636 milioni, ma la Spagna ha Real Madrid e Barcellona. Non so quanti palloni d'oro giochino in Italia, non so quante Champions la Serie A, le squadre di Serie A hanno vinto negli ultimi 10 anni. È evidente che noi abbiamo un grande potenziale, ma completamente sprecato e rovinato negli ultimi anni. Stiamo ripartendo, i risultati dei club cominciano, in particolare quello della Juventus a livello europeo, a ridare lustro e smalto alla Serie A. Serve rifare completamente il sistema di governance della Lega, avere dei manager e non essere soggetti agli umori dei presidenti. Serve fare tante cose in giro. Quindi per il mondo lavoriamo e pedaliamo, assolutamente, lamentarsi serve a poco. Lì, secondo me, e quel principio lì secondo me è giusto, perché è un principio fondamentale e che mi auguro farà anche in qualche modo precedente, perché stabilisce il principio alla fine delle società di poter dire la loro e di poter valutare non soltanto aspetti strettamente quantitativi di un contratto. Ripeto, è ovvio che se tu devi vendere una casa, uno ti dà 600 e l'altro te ne dà 300, sei un pazzo se vai da quello che te ne dà 300, questo è ovvio. Però è altrettanto vero che magari nella vendita di una casa le variabili sono di meno, ma nella valorizzazione di un prodotto così complesso come il nostro calcio esistono anche degli altri elementi, per cui se c'è la sensazione, l'idea concreta che tutto questo possa contribuire al miglioramento, mi sembra un fatto sicuramente importante. Mi sembra che siamo dietro, ma siamo dietro ovviamente agli inglesi, siamo dietro agli spagnoli, però insomma mi sembra siamo avanti un risultato discreto, per esempio, così, assolutamente dignitoso. No, credo che sia molto buono rispetto, ripeto, alla situazione attuale. La Bundesliga incassa 240 milioni, la Ligue 1 80, ora è arrivato Neymar, quindi i prossimi contratti sono destinati a salire, però noi diciamo torniamo a far valere quello che è il brand Serie A, ripeto, con tutte le problematiche. Pensiamo agli stadi, al colore dei prati, alle difficoltà di creare un prodotto, come dire, di qualità, perché la Premier gioca anche su questi aspetti che sembrano secondari, sì, ma io sicuro che non lo sono. Ebbene, e tutto questo lo ci deve pieno, ragazzi. Esattamente. Tutto questo ci deve portare lo stadio pieno, guardate. Questo vale per tutti, essenziale. Abbiamo detto mille volte, per Sky, per Mediaset, per la Rai, per tutti quelli che fanno televisione. Non pensate mai che si goda nel vedere uno stadio vuoto, anzi lo stadio vuoto è la cosa che impoverisce di più, anche oltre che impoverisce la nostra passione, che poi essenzialmente per raccontare il calcio ci vuole passione, bisogna emozionarsi, e uno stadio pieno è meglio di uno stadio vuoto, ma anche dal punto di vista proprio strettamente di business, uno stadio vuoto non vende, non funziona, non crea appeal, e quindi non è solo un aspetto cromatico, insomma sono cose che ripetiamo anche troppo spesso, e Berinazzo c'è entrato anche il problema, stadi, prati, colori e campioni soprattutto. Marco, in un minuto mi spieghi perché c'è questa fuga di sponsor dal Milan, l'Adidas dopo 20 anni erotti che dice no, non ci stiamo più, l'Audi che dice no, non ci stiamo più, insomma fuga degli sponsor dai rossoneri. Sai, c'erano anche, come dire, rapporti di fiducia personale rispetto alla precedente proprietà, gestione, sì. L'Audi ha fatto questa scelta, l'Adidas è una scelta più importante chiaramente, ma era come dire già nelle premesse quando ha scelto la Juventus, perché la politica di Adidas è quella di avere una squadra big per campionato, e avere due squadre in Italia creava effettivamente qualche problema, e quindi hanno deciso di spostare gli investimenti altrove, quindi c'era un contratto lungo, ma si è trovato l'accordo per tagliare i ponti prima. C'è una situazione comunque di incertezza intorno al Milan. Ora non so se si possa parlare effettivamente di fuga degli sponsor, diciamo che c'è un riposizionamento del club rossonero connesso a tutte le vicende che abbiamo raccontato, e immagino insomma che ci sia già pronto un sostituto, non so se con un contratto importante come quello di Adidas, ma insomma è bene che la dirigenza possa trovare un contratto così importante, perché Adidas dava al Milan quasi 20 milioni quasi 20 milioni all'anno, insomma. Grazie Marco, grazie a voi, a presto. Pierluigi Pardo, con cui insomma, parleremo di derby nei prossimi giorni. Ciao ragazzo mio. Assolutamente. Ciao. Naturalmente a Giorgio De Luca, nostro autore, a Roberta Frisani, a Gianmarco Ferronato in regia, e a tutti gli ascoltatori che aspettiamo domani alle 14. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.